Allora, abbiamo detto gli oggetti transizionali di Winnicott, io a questo punto vi leggerei direttamente il pezzo così evito di dire puttanate. L'azione verbale, questo è Virno che parla, l'azione verbale condivide molte delle caratteristiche che Winnicott attribuisce ai cosiddetti fenomeni o oggetti transizionali. Sono chiamate così le esperienze situate a mezza strada fra i meandri della psiche, desideri, impulsi, intenzioni, eccetera, e l'ambito delle cose e dei fatti accertati intersoggettivamente. Segue citazione da un'opera di Winnicott che si chiama Human Nature, tradotta anche in italiano con Sulla natura umana. Questo è Winnicott. Dopo la nascita del bambino, questa sostanza intermedia che unisce e contemporaneamente separa viene rappresentata da oggetti e fenomeni dei quali si può dire che mentre fanno parte del bambino fanno parte anche dell'ambiente. Solo gradualmente pretenderemo dall'individuo che si sviluppa una distinzione piena e consapevole tra realtà esterna e realtà psichica interna. Rimangono in verità i resti della sostanza intermedia nella vita culturale degli adulti. Rimangono in realtà i resti della sostanza intermedia nella vita culturale degli adulti, cioè anche negli adulti rimangono delle tracce di questi fenomeni transizionali a mezza strada tra l'interno e l'esterno. Ed è ciò che distingue gli esseri umani dagli animali, arte, religione, filosofia. Tra i fenomeni transizionali censiti da Winnicott spicca in alto rilievo l'attività ludica, il gioco. Proprio come la prassi linguistica e il virtuosismo dell'artista esecutore, il gioco è pubblico, ma non esteriore, dato che non dà luogo a un'opera indipendente. Anche quando si gioca non si costruisce nulla, si gioca. Il gioco si esaurisce nell'atto di giocare. Quindi non dà luogo ad un'opera indipendente, ripudiabile come non io. No, questo è un registratore, non sono io. Invece il gioco, anche se ho fatto un gioco il più cretino possibile, siamo noi che stiamo giocando. È personale, ma non è interiore, dato che non presuppone rappresentazioni mentali, ma anzi le provoca come suo riverbero, come effetto collaterale. Secondo Winnicott, mentre la realtà esterna e la dotazione istintuale hanno una indubbia fissità, la realtà esterna è fissa, i miei istinti grosso modo anche, mentre il gioco è invece contrassegnato da un alto grado di variabilità e di contingenza. Si potrebbe dire che esso illustra bene quella indeterminatezza che a giudizio di Wittgenstein affetta ad un tempo la vita e il linguaggio. Infine, ma non ultimo per importanza, a proposito dei fenomeni transizionali decade l'alternativa canonica tra innato e acquisito, vigendo invece un modello paradossale, sempre Winnicott. Il bambino crea un fenomeno, ma questo fenomeno non sarebbe stato creato se non fosse stato già lì. È come il linguaggio. Noi abbiamo la capacità di parlare, quindi è ovvio che c'è una dimensione innata, però ogni volta che si impara a parlare è qualcosa che si acquisisce. Quindi siamo sempre, cioè, non ha totalmente ragione Chomsky a dire che il linguaggio è un fenomeno totalmente innato, ma ha ovviamente parzialmente ragione, perché esiste una facoltà di linguaggio innata. Però poi non solo i singoli atti linguistici, ma generalmente la mia capacità di linguaggio, la mia possibilità di parlare di ognuno di noi, questo è un fatto acquisito sulla base di qualcosa che era innato. Quindi è sempre più simile a qualche cosa che ha a che fare col gioco. Siamo sempre in zone intermedie tra l'interno e, diciamo, l'esterno, l'innato e l'acquisito. Qualcosa che esisteva per suo conto viene reinventato ex novo. Ciò vale per il gioco, ma vale anche in tutta evidenza per l'attività locutoria. Il linguaggio, in quanto organo biologico della prassi pubblica, è il più ragguardevole e diffuso fenomeno transizionale. Teniamola bene a mente questa definizione che dà Virno del linguaggio, perché in una frase riassume bene molte delle sue caratteristiche. Il linguaggio, quindi, dice Virno, è un organo biologico della prassi pubblica. Organo biologico, questa è la dimensione radicata nel corpo e innata. Non possiamo farci nulla. Nasciamo tutti, volenti o nolenti, con una facoltà di linguaggio. Quindi è un organo biologico. Però di che cosa è l'organo? Di una attività che è la prassi pubblica, è una prassi, non è una tecne, non è una poiesis, non è un'attività tecnica, non è un'attività creativa nel senso di creare un'opera, è una prassi. Ma questa prassi è irrimediabilmente pubblica, non si parla da soli. Anche il matto che parla da solo perché opera uno sdoppiamento implicito in lui, si mette se stesso davanti allo specchio. Anche noi, capita a tutti noi, anche se non siamo matti, di parlare da soli. Spesso lo facciamo, ma anche negli istanti in cui parliamo da soli c'è uno sdoppiamento, parliamo a noi stessi. In quel momento interpretiamo entrambi i ruoli, entrambe le parti, sia di parlante che di ascoltatore, il locutore e l'interlocutore. Quindi organo biologico della prassi pubblica, mi sembra una bella definizione perché in poche parole riassume tutte le caratteristiche principali del linguaggio. È importante l'accenno che ha fatto prima sulla questione, diciamo, sul fatto che il linguaggio abbia molte caratteristiche in comune non solo col gioco ma anche con la vita. Il primo che fece questa osservazione, cioè che formulò questa ipotesi che il linguaggio fosse leggibile, fosse comprensibile come una forma di vita, è stato Wittgenstein, come sempre, in un pezzo delle ricerche filosofiche, no, in un pezzo della grammatica filosofica. Wittgenstein. Un segno è pur sempre lì per un essere vivente, dunque questa deve essere una cosa essenziale al segno. Non ci sono segni se non ci sono esseri viventi. Gli esseri viventi sono gli unici che producono dei segni. Già, come si definisce un essere vivente? Si chiede Wittgenstein. Sembra che io qui sia pronto a definire l'essere vivente ricorrendo alla capacità di usare un linguaggio segnico. E in effetti il concetto di essere vivente ha una indeterminatezza del tutto simile a quella del concetto linguaggio. Noi sappiamo cos'è l'essere vivente, ma è difficilissimo dare una definizione in positivo descrivendolo. E tutti quelli che hanno provato a definire bene cos'è la vita è un fenomeno biochimico, certo, è vero, ma perché non tutti i fenomeni biochimici danno origine a esseri viventi? Dove sta il confine preciso tra non viventi e viventi? Cos'è un virus, non un batterio? Cos'è un virus? È un essere vivente, un virus? Alcune cose le assimila ad esseri viventi, altre cose no. Non si nutre, non mangia il virus. Si replica all'infinito, ma non si muove, certo, come gli altri esseri unicellulari, ma come dire, per esempio, non ha alcuna forma di assimilazione dell'esterno nel proprio interno, e quindi questa è una cosa che in genere per tutti noi caratterizza gli esseri, diciamo, viventi. Il linguaggio, dice sempre Virno, stipula da sé i criteri a cui si attiene, sempre Wittgenstein. Le regole della grammatica si possono chiamare arbitrarie, se con ciò si vuol dire che lo scopo della grammatica è soltanto quello del linguaggio. L'arbitrarietà dei segni linguistici è uno dei marchi più tipici del carattere transizionale, per usare termini di Winnicott, del linguaggio, i segni linguistici non sarebbero arbitrari se ci fosse uno scopo. Quando c'è uno scopo, quando si deve costruire qualcosa di specifico, lo strumento deve avere sempre una relazione necessaria con il pezzetto di scopo per il quale viene usato. Il gesto per scolpire una statua, o il gesto del pennello per dipingere un quadro, il gesto dell'uomo primitivissimo per scheggiare la pietra, non sono arbitrari. Non posso scheggiare una pietra con gesti arbitrari, devo trovare il gesto buono, c'è soltanto un gesto che realizza quell'impatto sulla pietra e fa staccare la scheggia e mi produce il bordo, diciamo, tagliente. Non c'è arbitrarietà nei mezzi per costruire un'automobile. Devo fare delle cose precise per costruire l'automobile. La pressa deve pressare con la miera con quella forza particolare per dargli quella certa forma. Non posso dare dei colpi a cazzo, no? I segni linguistici invece sono arbitrari. Questo è uno degli indici, è uno dei sintomi del fatto che il linguaggio non abbia uno scopo particolare, non abbia una diciamo teleologia, non serva per costruire qualcosa di specifico, serve per una quantità di scopi terribilmente indeterminata, di scopi, di oggetti, di prodotti. Le cose che si possono produrre con il linguaggio sono diversissime le une dalle altre. L'unità di misura non è disgiungibile da ciò che deve essere misurato, anzi, istituisce il fenomeno al quale si applica. Detto altrimenti, la regola non si limita ad amministrare il rapporto tra significati e realtà, ma presiede alla stessa formazione di ciascun significato. Sempre Wittgenstein. Non è possibile nessuna discussione se per la parola non vadano bene, cioè siano conformi al suo significato, queste o altre regole. Infatti, senza queste regole, la parola non ha ancora nessun significato. Se cambiamo le regole, ha un significato diverso, o non ne ha nessuno, e allora possiamo benissimo sempre cambiare le regole. Se ogni regola diversa, applicata a un certo frammento di produzione linguistica, genera risultati diversi, per esempio diversi significati per le parole, o nessun significato, nel momento in cui io devo semplicemente fissare un significato qualunque, non quel certo significato. La parola cane significa l'animale cane in italiano arbitrariamente. Avrei potuto dire Bidi Bock, che cazzo c'è? Storicamente è uscito che è venuto cane, ma tant'è vero che gli inglesi dicono dog, i francesi dicono chienne. In ogni lingua, ogni parola in generale, ogni significato è associato a parole, diciamo, diverse. Oltre a tracciare un evidente discrimine tra linguaggio e produzione, l'arbitrarietà delle regole fuga anche l'illusione cognitivista, secondo la quale l'eloquio umano avrebbe il compito di comunicare pensieri già pensati. Io prima non vi ho detto che io volevo comunicare, che nel mio cervello si formavano già pensieri. Sono contenuti mentali molto vaghi, sono dei prepensieri. È soltanto linguisticamente che questi diventano pensieri. Però, diciamo, rimane valida, rimane vera l'idea che i contenuti mentali, cioè i prepensieri, sono più vasti di quelli che io posso verbalizzare e trasformare in pensieri. Per un verso, come dimostra l'esempio del non, vi sono molti pensieri resi possibili soltanto dal linguaggio. Per l'altro, ma sempre in virtù della medesima arbitrarietà, vi sono molti enunciati che non hanno alcun valore epistemico. Quale pensiero esprime mannaggia? O aiutatemi? O mio Dio? Ripetiamo, né poiesis, ma neanche episteme, il discorso umano è in primo luogo praxis. Pratica, è una pratica, è una attività, è una delle forme più tipiche con le quali l'uomo compie delle azioni. Arbitrario, è sempre virno questo, significa naturale. I due termini si implicano a vicenda e talvolta sfiorano la sinonimia. Se fosse un artefatto, cioè uno strumento, il linguaggio sarebbe sottoposto a regole invarianti, desunte dal modo migliore di metterlo a frutto. Ma il linguaggio è nella natura dell'uomo che non l'ha fabbricato. La prassi verbale è un tratto caratteristico della nostra specie. A differenza della comunicazione animale, in cui ogni singolo segnale corrisponde univocamente a una particolare evenienza ambientale, pericolo determinato, possibilità di procacciarsi il cibo, eccetera, eccetera, il discorso umano è scomponibile in elementi di articolazione privi di significato, la cui combinazione selettiva e distintiva dà luogo alle unità significanti. Le sillabe, le consonanti, le vocali non vogliono dire un cazzo, è soltanto quando le combino che formo, quindi il linguaggio è una produzione sonora basata sulla articolazione doppia. I mattoni elementari, i costituenti elementari del linguaggio non significano nulla di per sé, il significato si ha soltanto al secondo livello, cioè quando vengono combinati insieme questi suoni. Nella comunicazione animale non è così. Nella comunicazione animale il suono è immediatamente significante, vuol dire qualche cosa, e quindi il numero di significati esprimibile per un animale che non sia l'uomo è molto basso, perché è limitato al numero diverso di suoni che quello può, come dire, produrre. Mentre per noi i possibili significati sono potenzialmente infiniti, perché posso accoppiare tutte queste cose nei modi migliori, nei modi che io. Si tratta pertanto del linguaggio di un'attività biologica, non vincolata però alle configurazioni dell'ambiente, di un'attività fine a se stessa, il cui risultato combacia senza residui con l'esecuzione. Questa è una buona definizione di un'attività, diciamo, creativa senza scopo. Il risultato di questa attività coincide con la sua esecuzione. Quando io parlo, per avere un risultato non devo fare altro che parlare. Nel momento in cui parlo, ecco il risultato. Non è che c'è un risultato, ci possono essere risultati successivi, ma queste sono le conseguenze extralinguistiche del linguaggio. Il linguaggio ha delle condizioni extralinguistiche, cioè delle condizioni di partenza, biologiche, anche sociali, eccetera, e ha delle conseguenze extralinguistiche, ma nel linguaggio in quanto tale l'esecuzione coincide con il risultato, ecco perché è una performance. È un'attività fine a se stessa, non può che essere autoregolata. L'arbitrarietà delle regole linguistiche è quindi naturale e persino necessaria. Wittgenstein, sempre dalla grammatica filosofica, nel linguaggio l'unico correlato di una necessità naturale è una regola arbitraria. È l'unica cosa che da questa necessità si possa travasare in una proposizione. Quindi è la nostra necessità naturale, è il fatto che il linguaggio sia un organo biologico, è proprio questo che rende necessario l'arbitrarietà delle regole. È soltanto se il linguaggio è un'attività naturale basata sulla biologia che può essere l'organo di una prassi pubblica, che può essere l'organo di una attività pratica concordata con gli altri, negoziata, discussa, conflittualizzata con gli altri membri dell'essere umano. Se non fosse naturale, cioè se fosse un'attività pensata dall'uomo e mirata a una certa azione, avrebbe delle regole necessarie, perché sarebbero le regole migliori per far venire fuori quel certo oggetto. Dovendo produrre una infinità di oggetti possibili, cioè tutte le diverse manifestazioni della prassi pubblica, non può avere regole, non può avere regole arbitrarie, non può avere regole se non arbitrarie, non può avere regole connaturate alla sua attività, non ci sono. In altri termini, diciamo, questa è la critica più forte che uno possa formulare alla teoria, diciamo, chomskiana della grammatica universale. Come il digitale? Più o meno come il digitale. Per i più arditi tra voi, suggerisco anche il seguente altro parallelo. anche il concetto di corpo senza organi, formulato da Artaud, ma riscritto da Deleuze e Guattari sia nell'Antiedipo che in Mille Piani, anche l'idea del corpo senza organi potrebbe essere assimilabile ad una attività linguistica. Perché l'idea di corpo senza organi è il recupero, il ritorno a una pluralità di possibilità del corpo slegate dalla imposizione storica di certe storicità, diciamo, del corpo, o di certe regole, come dire, sociali. L'idea del corpo senza organi è che il corpo abbia un insieme di possibilità che conserva anche dopo la sua regolazione sociale, cioè anche dopo che una certa prassi sociale abbia codificato certi comportamenti, diciamo, del corpo, quelli che Foucault identificava nelle società disciplinari o successivamente nelle società di controllo. Effettivamente, oltre al in una lontana trasmissione televisiva degli anni 90, un giorno, discutendo a Mediamente, Bifo e io, Berardi e io, discutendo del corpo senza organi di Deleuze, dicemmo, non mi ricordo più chi dei due lo disse, ma in effetti formulammo questa idea, che il digitale fosse una specie di gigantesco e collettivo corpo senza organi, perché è un insieme di potenzialità e di possibilità date dalla combinatoria di due elementi semplicissimi, tanto più potente quanto più basso è il numero di elementi, addirittura due soli, quindi il numero minimo per poter avere una combinazione, insomma, perché un elemento da solo non si può combinare se non con la sua assenza, ma una volta che avete stabilito qualcosa che c'è, qualcosa che non c'è, avete già due elementi, cioè lo 0 e l'1. E quindi obiettivamente questo potrebbe essere, però bisogna andarci cauti perché adesso non sono ancora riflettuto. Leggiamo il finale del capitolo primo, va così, ci tiriamo su di morale, che si intitola, sempre nel capitolo Il parlante come artista esecutore, si intitola Animale linguistico, animale politico. Allora, dice in questo capitolo, lui ricapitola quello che ha detto, quindi mi serve, così vi dico meglio quello che ha, al di là delle mie, perché ho aggiunto delle cose mie nelle cose che vi ho detto oggi, quindi non pensate che sia molto fedele a quello che ha detto Virno. Dice, ricapitoliamo, dice Virno, la performance del ballerino o del violinista è una attività senza opera, manca di uno scopo esterno e implica necessariamente la presenza altrui. Queste caratteristiche salienti si attagliano anche al discorso verbale e alla prassi etico-politica. Cioè anche il discorso verbale e la prassi etico-politica sono attività senza opera, non hanno uno scopo esterno, implicano la presenza altrui. Non si può fare politica da soli e neanche parlare da soli. Di più, il linguaggio e la cura degli affari comuni costituiscono addirittura la matrice o il prototipo universale dell'attività senza opera. Il virtuosismo tecnico del musico e del danzatore si limita a illustrare, peraltro in modo lacunoso e posticcio, il basilare virtuosismo naturalistico di cui dà sempre prova l'animale umano alle prese con lo spazio potenziale tra la mente e il mondo. All'artista esecutore va tuttavia riconosciuto un merito grande, poiché evoca in un colpo solo tanto l'abilità del parlante quanto l'avvedutezza, il termine greco è phronesis, di chi agisce nella sfera pubblica, proprio perché evoca in un sol colpo tanto l'abilità del parlante quanto l'avvedutezza del politico, la sua prestazione offre un prezioso anello di congiunzione tra le due celebri definizioni aristoteliche dell'Homo sapiens, animale che ha linguaggio e animale politico. Queste formule non suscitano problemi di sorta finché ci si balocca con l'idea che la seconda sia subordinata o tutt'al più complementare alla prima, cioè che animale politico sia una conseguenza di animale linguistico. Risultano assai meno innocue però se si percepisce la loro piena sinonimia, ovvero la tautologia a cui esse danno luogo quando le si enunci una dopo l'altra. Gli autori che hanno concepito il linguaggio come produzione, poiesis, o come cognizione, episteme, le teorie descrittive del linguaggio, strumento sociale o ulteriore patrimonio della mente, ammettono senza patemi d'animo che l'animale linguistico può essere anche talvolta un animale politico. Ma non sospettano neppure per un momento queste persone che le due definizioni sono coestensive, indiscernibili, logicamente equivalenti. Animale linguistico vuol dire la stessa cosa di animale politico. Anziché discettare pigramente sugli usi politici della parola, occorre mettere a fuoco l'intrinseca politicità del linguaggio. Quest'ultima diviene manifesta non appena si ravvisi la robusta parentela che unisce il parlante all'artista esecutore. O meglio, non appena si riconosca che il discorso articolato è innanzitutto una praxis virtuosistica, il cui fine ultimo è l'esercizio stesso di questa facoltà. La politica non è una forma di vita tra le altre, correlata a uno specifico gioco linguistico come credono certi wittgensteiniani troppo morigerati. Essa, la politica, non mette radici in una regione circoscritta dall'attività cerebrale, ma fa corpo con lo stesso avere linguaggio. Una e medesima è la configurazione biologica che consente di parlare e che spinge ad agire politicamente. L'indole politica dell'eloquio umano rappresenta semmai il presupposto unitario su cui poggiano sia le diverse forme di vita, sia i diversi, i molteplici giochi linguistici, tra i quali spiccano per importanza, certo, i giochi linguistici cognitivi e quelli produttivi. Certo che il linguaggio serve fortemente per produrre qualcosa e per conoscere, ma il gioco linguistico in quanto tale si basa su qualcosa di più fondamentale, che non coincide con questi scopi. Studiare il linguaggio come organo biologico della prassi pubblica non è un compito marginale cui attendere nell'ora di ricreazione dopo che il lavoro duro è ormai terminato, bensì il fulcro di ogni indagine sulla natura umana. Uno studio siffatto riguarda le fondamenta, non l'arredamento. Per intendersi, si colloca allo stesso livello della ricerca di Chomsky sulla grammatica universale o della riflessione di Saussure sulla bifacialità del segno. Non ha invece nulla a che vedere questo studio con la militanza anarchica di Chomsky, ammirevole, mascista della sua teoria linguistica, né tantomeno con le vaghezze stucchevoli di cui va fiera la cosiddetta sociologia della comunicazione. L'animale che ha linguaggio è di per sé, senza bisogno di aggiungere altro, un animale politico. Tutto il resto conta, come no, ma viene dopo. Per dirla con un famoso generale francese, l'intendance suivra. Che è un modo di dire francese che dice mandate avanti le truppe, quello che viene dopo seguirà, cioè l'entendance vuol dire tutto l'armamentario logistico che sta dietro ad un esercito, l'entendance seguirà, l'intendenza seguirà. Ora non so se ho molto tempo, ma vi accenno soltanto ai problemi che, devo dire, però Virno accenna soltanto nell'ultimo capitolo, e cioè quello chiamato moltitudine e principio di individuazione. E adesso io non voglio neanche entrare troppo sul tema specifico che è la questione dell'individuazione, però voglio dire soltanto questo. Il succo di questo capitolo, secondo me, e questa è la ragione per la quale è un tema collegato con il linguaggio, se dovessi esprimere nel modo più sintetico, direi l'identità, cioè ciò che rende un individuo diverso dall'altro, non è un dato di fatto, non è un a priori, non è qualcosa che sta all'inizio, è il risultato di un processo, è una processualità, è una costruzione, ognuno di noi costruisce se stesso come individuo, e lo costruisce sulla base delle relazioni che ha con gli altri. e le relazioni che ha con gli altri sono prevalentemente, dal punto di vista strutturante, relazioni linguistiche. Certamente sono anche relazioni corporali e fisiche in generale, ma il modo in cui diventano propriamente umane, cioè acquisiscono una dimensione simbolica, è quello del linguaggio. Ora, ciò vuol dire tante cose, ma insomma ne segnalo prevalentemente due. Tutte le impostazioni del liberalismo classico e dell'individualismo contemporaneo, riassunte nella famosa frase di Margaret Thatcher, non esiste qualcosa di simile a una società, perché ci sarebbero gli individui e le società sarebbero un fenomeno secondario rispetto, cioè ci sarebbero, prima di tutto ci sarebbero gli individui e poi gli individui si associerebbero tra loro, ma la società non sarebbe nient'altro che un insieme di individui. Allora, questa è una frase senza nessun fondamento, è una teoria senza nessun fondamento, perché se l'individuo è il risultato di un processo e non un dato di fatto e non un a priori e non qualcosa che esiste prioritariamente, ma è il risultato, in altri termini l'individuazione è un processo che è descrivibile, che ha delle regole, che ha delle regolarità, ma la dimensione fondamentale e primaria dell'essere umano in quanto animale linguistico, in quanto animale politico, è la sua dimensione sociale. È la dimensione sociale che viene per prima ed è dalla dimensione sociale che noi costruiamo faticosamente e pericolosamente anche a volte la nostra dimensione, la nostra individuazione. Allora, se questo è vero, è evidente che il linguaggio ha una funzione centrale in questo processo di costruzione e di individuazione. È anche vero però che storicamente le società non sono tutte uguali. Almeno da quando esiste l'antropologia, insomma, e l'etnologia, noi sappiamo non solo la estrema varietà di formazioni sociali, di strutture che stanno al di sotto delle relazioni delle varie società, ma addirittura che certe società sono costruite su principi diversi da altre. Quindi è evidente che non ci sarà un processo unico di individuazione, che il modo di diventare individui in una tribù nambiquara, nel metodo del Mato Grosso in Brasile, sarà diverso dal modo di diventare individui in Italia nel XX o nel XXI secolo. Il modo di diventare individui in Italia sarà un po' diverso che diventarlo in Moldavia, un pochino, non tanto, ma un po' diverso lo sarà. Sarà diverso da come diventarlo negli Stati Uniti, sarà diverso e sarà tanto più diverso quanto più i vari modelli sociali, non una supposta natura umana o una natura razziale o una natura etnica individuale. Lo spirito dei popoli, se c'è, è uno spirito collettivo, è la società che si differenzia dalle altre e però in questo modo differenzierà anche il modo di formazione degli individui. E qui voglio introdurre, ed ecco perché è pertinente qui, la questione moltitudini e popoli. Moltitudine e popolo, i due concetti di moltitudine e di popolo. Perché, diciamo, il pensiero politico e quindi la sociologia, poi anche però il modo di pensare la società, e l'epistemologia, insomma, diciamo, la formazione di una mentalità moderna, di un modo di pensare moderno, di una filosofia intesa non in senso tecnico, intesa nel senso di un modo di pensare comincia nel XVII secolo proprio con questa idea della moltitudine, vista come la cosa più pericolosa che ci possa essere. Uno dei principali protagonisti, uno dei fondatori delle moderne teorie politiche, quindi anche della sociologia, eccetera, è Thomas Hobbes, inglese del XVI secolo, che è testimone della rivoluzione cromwelliana, della decapitazione del re, del breve periodo, diciamo, dittatoriale. Per il resto l'Inghilterra, tranne la breve periodo di Cromwell, dalle sue origini a oggi è sempre stata una monarchia. Però c'è questo breve interno, in cui però si mettono in gioco i valori fondamentali è la prima rivoluzione vagamente classificata come borghese, precede di quasi un secolo quella americana e di oltre un secolo quella francese, e quindi come tale è molto sui generis, è molto, come dire, particolare. È la rivoluzione francese quella che meglio di tutte esprime l'essenza e le caratteristiche borghesi di questa, diciamo, rivoluzione anti, però proprio perché la prima, per certi versi è la prima, è quella che ha permesso di formulare le teorie. Bene. Allora, Thomas Hobbes, nell'opera chiamata Leviathan, espone una teoria della formazione della società che ha avuto poi molto successo e che sinteticissimamente vi esprimo così. E che non a caso è quella molto, molto amata dai pensatori liberali, perché condivide con il liberalismo esattamente il presupposto che dicevo prima, cioè che l'individuo sia un a priori rispetto alla società. Per Hobbes la società è un fenomeno storico, non c'è sempre stata. Per Hobbes c'è un ipotetico stato di natura, cosiddetto, nel quale c'è una moltitudine di individui, ci sono tanti individui, uno, come dire, separato dall'altro. Questa condizione che Hobbes pensa sia naturale degli esseri umani, in questa situazione che Hobbes pensa sia naturale degli esseri umani, vige una condizione di base che Hobbes chiama di bellum omnium contra omnes, guerra di tutti contro tutti. Ognuno fa la guerra agli altri. I più forti, quelli che picchiano di più, quelli che hanno la clava più grossa, quelli che sono capaci di sollevare il pietrone più grosso, quelli che sono più stronzi perché fanno l'agguato agli altri, quelli che sono più furbi, tutte queste cose qua vincono sugli altri e assoggettano gli altri, li uccidono, non gli danno la possibilità di vivere, eccetera, eccetera. Siccome gli uomini e le persone invecchiano, eccetera, può anche darsi che qualcuno che in gioventù fosse sia dalla parte, anzi sicuramente uno che in gioventù è stato dalla parte di quelli forti, quando invecchia passerà dalla parte di quelli deboli. Quindi prima o poi a nessuno conviene questo stato di cose che per Hobbes è, virgolette, naturale. Mi sto dicendo Hobbes, non sto dicendo che dice delle cose serie, ma però sono tutte cose che hanno influenzato poi il pensiero politico. Allora dice Hobbes che cosa succede? Succede che la gente si mette d'accordo e fa un patto. Questo è il patto sociale. Dice: creiamo una società. Dove sta, diciamo, l'errore di fondo, si dice, quest'uomo hobbesiano, questo uomo, virgolette, naturale? Dove stava l'errore? Dove ho sbagliato? Perché ho sempre così paura che mi debba capitare un altro con un mazzuolone che mi mazzola sulla testa e mi apre un buco così e mi ruba tutto quello che ho guadagnato e conquistato duramente durante il giorno? Perché siamo troppo liberi, c'è troppa libertà, ognuno è in grado di fare quello che gli pare, e quindi se c'ha il mazzolone più grosso viene, mi dà una saccagnata di botte e mi fa fuori, o mi ruba le cose, con lui o con la moglie o fa... E quindi dice, bene, mettiamoci d'accordo, alieniamo, togliamoci di dosso un po' di questa libertà che è troppa, deleghiamo a una persona o a un gruppo di persone un pezzo di questa libertà, facciamo in modo che queste persone stabiliscano delle regole alle quali tutti dobbiamo, diciamo, sottostare, quindi perdiamo un po' della nostra libertà naturale, ma in cambio acquistiamo, attuale il discorso, acquistiamo una grande sicurezza. Saremo tutti più sicuri. Lo Stato è ciò che ci rende sicuri. Lo Stato nasce dall'alienazione della libertà individuale, che è troppa, che è eccessiva quando l'uomo è in una situazione di moltitudine. Smettiamo di essere una moltitudine, diventiamo una nazione o un popolo, se preferite. Ecco come si passa da una moltitudine a un popolo. È evidente che la stipulazione di un contratto sociale, cioè di un patto sociale, è un'attività eminentemente linguistica, certo giuridica. Lì nasce il, diciamo, diritto. Quindi, in qualche maniera, Hobbes stabilisce, parla, racconta di una condizione naturale dell'uomo in cui non c'era diritto, non c'era legge, non c'era società proprio. Ognuno andava per conto suo, ognuno per sé e Dio per tutti, per chi credeva in Dio. Insomma. E la società nasce esattamente per, come dire, sopperire, per risolvere questo terribile problema dello stato di, diciamo, natura in cui la massima libertà coincide con la minima sicurezza o con la massima insicurezza. Notate che questa idea del patto, che la libertà derivi, che la società derivi da un patto, da un contratto fatto tra tutti i membri della, come dire, società, formulata forse non per la prima volta, ma nel modo più chiaro da Hobbes nel 1660, non ricordo più di che anno è, Leviatano, insomma, poi ne ha scritte varie opere, altre opere. In un'altra opera che è il De Corpore, sul corpo, Hobbes non inventa lui per primo, ma anche qui amplifica, eccetera, una, come dire, metafora che c'era già nei pensatori politici del secolo precedente, cioè del 500, che avrà un grandissimo, una grandissima fortuna dopo, cioè paragona, che però in realtà aveva origini antiche, perché aveva origini ecclesiastiche, era la Chiesa che si vedeva così, però la Chiesa è un grande corpo e la società è un grande corpo in cui gli esseri umani singoli sono gli organi, i pezzi di questo corpo, ma la politica, la società vuol dire mettere insieme un corpo, è esattamente come si parlava del corpo di Cristo, del corpo di Dio, il corpo di Cristo che riassumeva simbolicamente tutti i corpi, la Chiesa è il corpo di Cristo, ma la Chiesa è formata da tutti noi, supponendo che siamo, siamo credenti della Chiesa, di tutti loro, che sia. Quindi diciamo aveva origini religiose, viene trasformato, non è suo, ma insomma, queste due cose, bellum omnium contra omnes, insicurezza dello stato di natura, origine contrattualistica della società e insieme dello Stato, quindi per Hobbes non c'è società senza Stato, Ogni società presuppone uno Stato, presuppone un organismo di persone che gestiscono la mia libertà, che si sono impadroniti con il mio consenso, Sono io che gli ho detto, cazzo, pensa un po' tu per cortesia, che se no c'ho qua, sto vicino, Freddy, Barnes che dice a Freddy, Freddy c'ha la cara più grossa, quindi per favore salvami tu da Freddy o da Barnes, non mi ricordo più come si chiamavano i due cavernicoli. Cioè questa cosa e l'idea della politica come corpo sono penetrano talmente che anche coloro che hanno posizioni politiche, linee politiche opposte a quelle di Hobbes, esempio Rousseau nel secolo successivo, però adottano anche essi il modello contrattuale. Anche Rousseau scrive l'opera politica di Rousseau, e Rousseau è un politico democratico, non è un politico autoritario come Hobbes, non fonda la tradizione, diciamo, della destra politica, fonda quella della sinistra da vari punti di vista, o comunque... E fa un'opera, la sua opera si chiama Le Contrats Sociales, Il contratto sociale è lo stesso modello con delle varianti, ma è lo stesso modello di Hobbes. La società deriva da un contratto fra le persone. Detta in altri termini, la condizione di moltitudine è una condizione pericolosa, ci fa del male, siamo tutti uno contro l'altro, non ci possiamo mettere d'accordo, eccetera. È soltanto quando da moltitudine diventiamo nazione o diventiamo popolo. Poi naturalmente sono dei bei cazzi stabilire quali sono le nazioni, come si fa, eccetera. Però diciamo in linea di principio questo modello salva le cose. Benissimo. Passa un po' di tempo, arriviamo al Novecento, un pensatore tra i più importanti del Novecento, francese, Michel Foucault, passa metà della sua vita, della sua opera, a tentare di minare, di mettere il tritolo sotto a sto cazzo di modello contrattualistico e all'ipotesi di Hobbes e all'ipotesi che ci siano prima gli individui e poi le società, all'idea che le società nascano perché la gente si è messa d'accordo per delegare a qualcun altro, e spiega che è vero, dice Foucault, che le società nascono dalla guerra e dal conflitto, ma è anche sbagliato pensare che Hobbes non ha mai descritto davvero una guerra. Siamo noi che pensiamo che da quello che lui dice la società in questo modello ideale hobbesiano, in cui la moltitudine viene distrutta per dare luogo alla nazione o al popolo, non deriva affatto da uno Stato, da una guerra, non c'è affatto guerra nelle cose descritte da Hobbes, c'è la paura della guerra. È sufficiente che io veda che il mio vicino ha, nel modello di Hobbes, non di quello che dice Foucault, basta che io guardo il mio vicino, vedo che ha le spalle più larghe e la clava più grossa, e automaticamente vado da tutti quelli mingherlini come me, paurosi come me, pavidi come me, timidi come me, e gli dico: ragazzi, mettiamoci d'accordo, troviamone uno, troviamo lo sceriffo che ci difende da quello lì che ha la cosa più grossa. Non è stato necessario, idealmente, sempre, sparare nessun colpo di fucile, non è stato necessario dare nessuna mazzolata di clava sulla testa degli altri per realizzare il modello hobbesiano. Il modello hobbesiano nasce dalla paura della guerra, non dalla guerra. La società, dice invece Foucault, nasce dalle guerre effettive, dalle guerre che ci sono state davvero, dalle invasioni, dai conflitti, e spiega in molte opere, nei suoi corsi al Collège de France in maniera particolare negli anni 70, che sono usciti poi dopo, oltre che nelle sue opere, ma insomma specialmente in questi corsi, ha spiegato la nascita della politica in termini di guerra, ma spiegandola in termini di me. Ah, credo tu che avevi la cosa così, ora chiedere una cosa. Puoi tenerla come vuoi. E come la realtà nasce in termini di guerra, ma di guerra effettiva, di guerra reale, che all'interno delle società ci sono conflitti che generano divisioni all'interno di queste, come dire, società, perché la guerra genera sempre uno spartiacque e una, come dire, divisione, che questi pezzi di società costruiscono delle narrazioni per legittimare la propria posizione o l'aspirazione a cambiare posizione, e che ogni volta che c'è, e questo si è verificato varie volte nella storia dell'Occidente, ma di tutte le, come dire, società, noi in genere siamo abituati a pensare al momento certamente rilevante nel quale una nuova classe, quella che poi Marx e altri avevano chiamato borghesia, ma che in realtà molto diversificata, diciamo pure la borghesia, fra XVII e XVIII secolo cominciò ad acquisire coscienza del proprio nuovo peso economico all'interno della società e della non corrispondenza con un analogo peso politico. E le rivoluzioni borghesi sono solo questo, sono quando i tre stati, cioè è tipico la questione del giuramento della Sala della Palacorda, quando nel 1789 Luigi XVIII in Francia riunisce gli stati generali, ma stati generali è nobiltà, clero, borghesia, ognuno di essi conta per uno, quindi sono due contro uno se il clero si allea con la... mentre cominciano ad emergere le differenze interne ai vari schieramenti. Ci sono i preti che non vogliono votare con la maggioranza dei preti, ci sono anche i nobili che si ribellano. Tutte queste minoranze del clero e della, come dire, nobiltà si uniscono alla delegazione del terzo stato, c'è la secessione, l'esodo, si tolgono, dicono no, non ci sto più, non c'è nessun contratto, anzi c'è una spaccatura, c'è una divisione, c'è l'emergere di un diciamo conflitto, e le parole dell'abate Sieyè, che è un prete, ma esprimeva invece le rivendicazioni della borghesia, cioè del cosiddetto terzo stato, sono senza di noi non siete niente, con noi siete tutto. Noi siamo già la società, dice Sieyè. Il terzo stato è già la società. Siamo noi che facciamo funzionare, siamo noi che riscuotiamo le tasse per il re, che facciamo le attività amministrative, produttive. I nobili non fanno un cazzo, il clero neanche. Dice, siete dei parassiti. Noi siamo la società, possiamo fare a meno di voi. Si riuniscono, fanno la... C'è una rivendicazione, e quindi la rivendicazione di costruire una struttura politica tale da... Adesso, diciamo, l'attività di Foucault, vi dico Foucault perché è stato quello che più di altri ha fatto, di demolizione del modello hobbesiano, non a caso avviene negli stessi anni in cui nell'Occidente, in Europa e nel mondo, concretamente, storicamente, il collante che teneva insieme il popolo si sfarina. Voi dite, ma c'era stato già il marxismo, c'era stata già la lotta, la scoperta e la teorizzazione della lotta di classe, cioè del fatto che dentro al popolo la borghesia che ha fatto la rivoluzione, tra l'altro l'ha fatta riproponendo nuovamente già nel 1789 una specie di divisione del lavoro, cioè noi ci mettiamo le idee, noi, non solo l'abate Sieyè eccetera, ma noi commercianti, noi industriali, noi che siamo la borghesia, insomma ci mettiamo le idee e lo sforzo di sfondamento politico, per favore voi che siete poveracci e che lavorate già per me, che lavorate per noi, i sanculotti, il proletariato e il sottoproletariato dell'epoca, i miserabili, la feccia di Parigi, i vagabondi, quelli che Victor Hugo poi descriverà sia in Notre Dame de Paris sia nei miserabili, sono questi che hanno fatto la rivoluzione. La Bastiglia l'hanno presa un branco di straccioni e cenciosi senza le mutande, Saint-Culotte, questo è il nome, Saint-Culotte, senza le mutande, senza i pantaloni aderenti al ginocchio che portavano i nobili, ma con i pantaloni lunghi che oggi portiamo noi. Questi pantaloni qui sono i pantaloni dei Saint-Culotte. Fino alla metà dell'Ottocento i nobili portavano dei pantaloni simili ai fuseau che portano alcune signorine oggi, cioè pantaloni attillati al ginocchio, poi sotto le calze, belle calze sopra, fiocchi, fiocconi, eccetera. I sans-culottes erano quelli che noi avevano le culotte, cioè questa sorta di pantaloni mutande, ma ste braghe là con cui lavoravano meglio, perché poi non, insomma, gli si rompevano per o meno, se dovete fare un duro lavoro con un paio di fuseau rischiano di rompersi, no, adesso no perché sono quelli elasticizzati, ma all'epoca non c'erano i tessuti, non c'era la licra, quindi si rompevano, quindi sono i sanculotti che hanno fatto la rivoluzione, che hanno preso la Bastiglia per certo, c'era pure qualche panettiere, c'era pure qualche artigiano, qualche piccolo industriale, eccetera, ma poi il modello erano dei grandi professionisti. Robespierre era un avvocato di provincia, Saint-Just era un giovane figlio, non mi ricordo di quale famiglia, ricca, erano tutti ricchi, cioè tranne Marat forse, e Danton che era, ma insomma anche i, diciamo, giacobini, cioè anche la parte più radicale di quelli che hanno, ma il ceto politico era già ceto politico, era già gente che insomma se la passava non diciamo tanto male, comunque borghesi e non proletari. Quindi a un certo punto giustamente il proletariato, cioè il proletariato, non, se non vi piace il termine, quelli che lavoravano per quattro soldi, insomma, i poveri, i miseri, i miserabili, il proletariato e tutto il proletariato insieme. Per tutto il corso dell'Ottocento già se toc toc dice scusi, guarda che abbiamo fatto noi le diciamo, rivoluzioni per te, cioè, quindi vediamo un po' di il borghese una volta fatta la rivoluzione e sedutosi saldamente nella cosiddetta stanza dei bottoni dice vabbè che mi frega a me, tanto sei stato utile, ciao, mo per cortesia, però stai buono, e gli creavano un sacco di cose. Allora questo, come dire, modello c'era già, però in qualche maniera tutta l'attività sindacale e politica della classe operaia e dei partiti operai nel corso del Novecento è stata una attività che condivideva tutto sommato con i partiti borghesi alcuni, chiamiamoli, valori di fondo, alcuni meccanismi di fondo di funzionamento della società. Si badi bene, a sinistra, dalla parte del governo, non solo i socialdemocratici, anche i partiti comunisti, anche quelli che si erano proclamati rivoluzionari, si erano identificati con quelli che avevano fatto la rivoluzione d'ottobre, insomma, con il proletariato piccolo e i contadini russi, grandi masse che si erano ribellati all'autocrazia della lista, eccetera, eccetera, ma anche lì, producendo rapidissimamente una classe politica che aveva un bel definirsi rivoluzionaria e parlare in nome del proletariato, diciamo, internazionale, ma in realtà era principalmente allo sviluppo economico della Russia che pensava, e quindi semplicemente la rivoluzione russa ha aiutato a guidato la Russia, che era una nazione quasi per nulla industriale, totalmente contadina, in larghissima maggioranza, a diventare a poco una, diciamo, civiltà, una società industriale, creando quindi con ciò l'elite di una società industriale. Non ci sono cristi. Si potevano chiamare comunisti, commissari del popolo, i soviet sono morti in Russia dopo il primo anno o meno. L'emblema più chiaro è che è stato quando i marinai di Kronstadt, non nel 22 ma nel 1919, quindi un anno e mezzo dopo la rivoluzione d'ottobre, i marinai di Kronstadt, che è città sul Mar Baltico, adesso non so se è polacca, perché forse un tempo era, insomma, russa, ma ora ci sono delle zone lì che sono contestate, come Kaliningrad, che un tempo era russa, adesso è polacca, insomma. Bene, quando mi ricordo, dice, ma cazzo, dice, ma oh, noi vogliamo, cioè, beh, noi vogliamo continuare a fare la rivoluzione, non vogliamo più gli ufficiali. Perché no, ma ci sono gli eserciti capitalisti che ci assediano, eccetera, eccetera. Il Comitato Centrale del Partito Bolscevico manda il ministro degli esteri e capo dell'esercito, il signor Leone Trotsky, a sterminare i marinai anarchici di Kronstadt. Trotsky, che poi guiderà l'opposizione di sinistra, cioè tutto di sinistra che volete, ma intanto quando era al governo lui massacravano la povera gente, quando era il caso, esattamente come avevano fatto gli zaristi, quindi insomma. Ecco, non è che fossero. Però siccome il linguaggio era siamo dalla parte del proletariato, siamo dalla parte di questo, di là, e sembrava che però hanno creato un equivoco Però al di là dell'equivoco politico, uno poteva dire c'è una massa di stronzi, non era solo quello. era che obiettivamente il proletariato delle società occidentali condivideva davvero in gran parte dei valori comuni con la borghesia ed erano soggettivamente convinti e oggettivamente convinti collettivamente, non solo individualmente ma collettivamente. Non è un caso che i partiti che hanno rappresentato la classe operaia per tutto il Novecento nei paesi dove non li hanno sterminati come negli Stati Uniti, diciamo in Europa, erano partiti comunisti e partiti socialdemocratici, e nessuno di altro tipo, nessun partito anarchico, poi il partito anarchico è già probabilmente una contraddizione in termini, ma tranne brevi zone, tranne per esempio in Spagna, nella Catalogna degli anni 30 gli anarchici erano molto forti, in Italia, in alcune zone della Toscana c'era una tradizione, ma non voglio dire che gli anarchici siano meglio, ma per dire era una delle possibilità che c'erano di non identificarsi o con i comunisti o con i socialisti, ma perché era nello stato di fatti, era nelle cose, obiettivamente la classe operaia aveva molti interessi opposti a quelli della borghesia, ma alcuni interessi comuni, quindi era normale che ci fosse questa integrazione. Ma proprio negli anni 70, proprio negli anni 70 in tutto il mondo, proprio negli anni in cui Foucault comincia a demolire il modello di Hobbes, socialmente maturano una serie di fenomeni nuovi. Il movimento del 68, che parte dagli studenti, ma sarebbe sbagliato identificare come un movimento puramente studentesco, perché rapidamente si allarga agli strati più giovani dei lavoratori delle fabbriche, degli operai, diciamo, di fabbrica, in maniera tragicamente sbagliata sul piano politico, perché riprendemmo le ideologie ottocentesche o del primo, diciamo, come dire, Novecento, e pensammo di identificarci nella tradizione comunista depurata da tutti i suoi errori, diciamo, no? Tentando di ritornare a una specie di comunismo primitivo, eccetera, ma il modo in cui noi, parlo per me perché sono uno di quelli che ha fatto questo percorso politico, il modo in cui noi abbiamo politicamente gestito è poco, diciamo, rilevante. Il fatto è che socialmente, alla base, nella società, maturavano le condizioni perché lo sviluppo capitalistico era stato molto forte, molto grosso e molto, diciamo, impetuoso, e aveva quindi rafforzato oggettivamente, c'erano tanti operai, c'erano tanti lavoratori, gli studenti si stavano tutti proletarizzando, la scuola diventava di massa e quindi non era più, come quando ero piccolo io, il luogo in cui si formavano le classi dirigenti, era il luogo in cui si formavano gli strati superiori della forza lavoro, e quindi anche noi stavamo diventando lavoratori con paura, perché come dire, passavamo, io ho cominciato l'università proprio in cui c'era il, come dire, trapasso tra, come dire, l'università come luogo di formazione delle elite politiche, culturali e economiche del paese, cominciava ad allargarsi sotto la spinta delle persone, come dicevano, voglio fidare anch'io. C'è una famosa canzone, in una famosa canzone di quegli anni lì, che si chiama Contessa, ironicamente l'autore, Paolo Pietrangeli, che adesso è uno che lavora per Mediaset, ma insomma, continua a fare il cantante o cantautore più o meno sovversivo o rivoluzionario, e c'era questo verso che diceva: anche l'operaio vuole il figlio dottore. Questa contessa diceva: anche l'operaio vuole il figlio dottore, cioè, c'era questa cosa che però era vero, cioè c'era una spinta, è stata questa che ha cambiato la scuola, diciamo, in Italia, la scuola in cui siete voi adesso, che è questa merda che è, perché è un processo di quel genere gestito nel modo peggiore, clientelare, eccetera, eccetera, ma questo era. Bene, in quegli anni cominciano, quindi, ripeto perché questo volevo comunicarvi, negli stessi anni in cui Foucault scrive tutte queste cose, in quegli stessi anni comincia ad andare in crisi il patto, diciamo, il collante, la coesione sociale che teneva insieme il popolo dell'Occidente, e comincia a riemergere la moltitudine, Ora, che cos'è la moltitudine? Comincia a riemergere la moltitudine però in maniera diversa da come l'aveva pensata Hobbes e da come negli stessi anni la vedeva la signora Thatcher. Una volta, una volta conclusi, sconfitti questi grandi movimenti che per tutti gli anni 60, per tutti gli anni 60, culminarono nel 68 e continuarono per gran parte degli anni, come dire, 70. Poi la scarsa, le scarse strumentazioni politiche che avevamo noi e la furbizia degli avversari, perché i capitalisti sono tutto meno che scemi, insomma. I capitalisti provarono per qualche anno a resistere imponendo il vecchio modello. Tu contesti il potere in fabbrica, dici che non posso decidere io, e io reprimo, e ti mando i poliziotti, e ci furono i morti. Certo, ci fu anche questo, ma a un certo punto non era più possibile. In Italia, l'Italia è stato il paese dell'Occidente in cui il 68 è durato più a lungo, è durato per quasi 10 anni, filati. A metà degli anni 70 nelle fabbriche italiane i proprietari, cioè i padroni, non comandavano più. Voi potete pensare che questa sia una cosa sbagliata, ingiusta, niente affatto. Comandavano le persone che ci perdevano la vita, il sonno, il sangue, quelli che sudavano lì dentro, quelli che con il loro lavoro costruivano le ricchezze degli altri. Per la prima volta comandavano in maniera indiretta, certo, ma erano in grado di bloccare i piani dei padroni. Erano in grado, concretamente, la produzione calava, l'inflazione aumentava, si produceva quando volevano e quando lo decidevano gli operai. C'era un'insofferenza negli strati più giovani. In tutto questo il sindacato aveva poco a che fare. Il sindacato voleva gestire grandi lotte, ma poi fare gli accordi. Non è che gli andava bene questa pratica endemica in cui giorno per giorno gli strati giovanili del proletariato costruivano una utopia, la costruivano nella propria vita quotidiana e cercavano di non fare più differenza tra la miserevole vita passata con lavorare per un altro, per arricchire un altro e non per arricchire te stesso da nessun punto di vista né come soldi né come esperienza, e il tuo tempo libero. E cercavano di fondere queste cose e cercavano di destabilizzare la stabilità del posto di lavoro, licenziandosi in continuazione. Quando non ne potevano più si licenziavano, andavano via, facevano altre attività, poi dopo tornavano in fabbrica. C'erano 10.000 modi di contestare la rigidità della fabbrica, la divisione tra tempo libero e tempo di lavoro, di mettere in crisi il meccanismo classico di accumulazione. Bene, il capitalismo, i capitalisti sono meno scemi di quello che noi pensiamo e quindi dopo un po' hanno smesso di, prima hanno aspettato ovviamente che noi fossimo più deboli, che fossimo più stanchi, perché è un po' difficile andare avanti per 10 anni, e le botte ce le hanno date. E quindi quando a un certo punto nel 1980 alla Fiat vengono licenziati 500 persone d'un botto, e sono tutti i capi, tutti cioè quelli più attivi nelle lotte della singola cosa, e non si riesce a fare neanche una manifestazione, insomma, diciamo decente, perché sono tutti, ma capiamo che sta cambiando qualche cosa. Ma insieme con questa cosa fa il capitalismo? I capitalisti, non il capitalismo che non esiste, i singoli capitalisti che cosa fanno? Ognuno a modo proprio acquisiscono, fanno proprie una parte delle nostre rivendicazioni. Non volete più la stabilità del posto, ah cazzo, va bene, volete entrare e uscire dalla fabbrica quando volete, va bene, facciamo così, ok. Vi dà anche fastidio che ci sia la fabbrica? Benissimo, ci si mette d'accordo. La Cina non c'era ancora, l'est europeo, il terzo l'Africa meno, l'America Latina, l'Asia, si comincia a delocalizzare, si toglie via la produzione, qua si smantellano, si diminuiscono le fabbriche, si mandano all'estero, si mandano la cosa. si comincia a smaltire tanti lavori, se vuoi, quindi sono precariato, c'è un contrattino, 6 mesi, 1 anno, poi quando vuoi, sei tu che l'hai chiesto, eravamo noi che come dire, l'avevamo chiesto, certamente non in questo modo, è ovvio. Il vecchio meccanismo di accumulazione, hai ragionissimo, è perfetto, facciamo perché palle sempre le merci, no, facciamo che tutto diventa una merce, facciamo che tutto diventa valore, facciamo che il linguaggio, la poesia, la fantasia, l'immaginazione, tutto entra nel ciclo economico, era stato fuori per tutta una fase, non c'era dentro, sono in grado di farlo perché da poco tempo esiste una tecnologia che è in grado di gestire tutti i, come dire, processi in tempo reale, si chiama informatica, l'hanno inventata degli anarchici, l'informatica distribuita, non quella dell'IBM, finché era stato l'IBM non sarebbe mai siamo successo, il personal computer, invenzione di un gruppo di anarcoidi e militanti politici della California, di Berkeley, attivisti politici, non come dire, Bill Gates era uno ai margini, erano altri, molto più politizzati. Ma però c'è ormai, c'è questa tecnologia, è come dire, disponibile, benissimo, si passa dal modello fordista poco a poco a quello cosiddetto post-fordista. Alla economia dell'attenzione, alla capacità di fare diventare merce, di trattare come merce non i semplici processi della produzione di oggetti materiali, ma i processi della produzione immateriale. Ora, tutto questo però, che cosa fa? Riporta in primo piano, non c'è più un popolo, il popolo e la, diciamo, nazione stanno scomparendo. In questi 20-30 anni ultimi stanno scomparendo, stanno ritornando fuori le moltitudini, ma non le moltitudini della Thatcher, cioè i gruppi di individui che sono in primo luogo individui. Certo, le moltitudini di oggi sono fatte di persone fortemente differenziate, fortemente individualizzate, non c'è più la dimensione di massa, la dimensione uniforme che c'era nelle vecchie masse, la classe operaia, eccetera, in cui obiettivamente per fare blocco contro la direzione della, diciamo, società, storicamente il movimento operaio aveva, non si era inventato, ma aveva assunto, aveva utilizzato al proprio interno il regime spersonalizzante della vita di fabbrica. E quindi aveva obiettivamente davvero diminuito, calato, messo la, come dire, sordina agli aspetti individuali. Le moltitudini di oggi non sono fatte così. Nelle moltitudini di oggi nessuno di noi, io credo, siamo tutti membri di moltitudini oggi e quindi sappiamo bene come ci stiamo dentro a queste moltitudini. Nessuno vuole rinunciare alla propria individualità. Tutti sappiamo bene quanta ricchezza c'è in questa individualità. Ma non è, come dire, ma l'affermazione della nostra individualità, l'esprimerla, il metterla fuori, il portarla, il valorizzarla, sappiamo che passa attraverso la molteplicità di relazioni che io ho con gli altri soggetti della moltitudine o con gli altri soggetti in formazione di questa moltitudine. Quindi il popolo è scomparso ed è tornata la moltitudine che faceva così paura ad Hobbes. Però in una cosa siamo simili alla moltitudine di Hobbes. Siamo refrattari al patto sociale. Non lo vogliamo più, il patto sociale. Ci fa paura. Ci fa schifo. Il patto, questo patto sociale vuol dire semplicemente che le persone che oggi detengono gli strumenti per gestirlo, questo patto sociale, le conseguenze di questo patto sociale, di questa alleanza sociale, continueranno a parlare lo stesso linguaggio che parlavano prima. L'economia è cambiata e l'economia è ormai una dimensione che gestisce direttamente anche il linguaggio, anche l'immaginario. Allora noi, le moltitudini oggi, sanno, ognuno lo sa a modo suo, in modo diverso, ma tutti lo sappiamo più o meno nello stesso modo. Le moltitudini sanno che mantenere i giochi linguistici gestiti nel modo in cui li gestisce la società in quanto tale, che quindi oggi mantenere in vigore il patto sociale vuol dire semplicemente riconfermare al potere chi già ce l'ha, il potere economico, le elite politiche, eccetera, eccetera. Sappiamo che c'è solo un modo, sanno le moltitudini che c'è solo un modo per sfuggire a questo, diciamo, ricatto, operare le moltitudini a loro volta un ricatto su queste persone e dirgli: non ci siamo più, noi siamo qua, non siamo più lì, siamo qua, noi ci siamo tolti dal patto sociale, il patto sociale non va più bene, il patto sociale fatelo tu con chi ha voglia, con chi, diciamo, ha voglia di farlo. Tutto questo prescinde largamente da come la gente oggi vota. Certo, votano Berlusconi, non è chiaro che cosa vuoi che ci siano, si può fare. Ma le condizioni per una messa in crisi del patto sociale oggi ci sono tutte. Ci sono tutte e soprattutto quello che è interessante è il terreno più fondamentale e più importante sul quale oggi operare la riconversione e quindi ricostruire non più un patto sociale, ma riqualificare le relazioni sociali all'interno delle moltitudini, arricchirle, farle ricche e dare loro una espressione. Dove sta questo lavoro? A che livello sta? Detto in altri termini, le moltitudini non parlano lo stesso linguaggio del popolo. Quelli come me si sono nati, cresciuti e hanno imparato a parlare con i modelli linguistici del popolo e della nazione. Io faccio parte di una generazione che ha, non tutta questa generazione, ma insomma di una minoranza politica però molto, molto attiva, di una generazione che ha messo, che si è rifiutata di stare a quel gioco, ma non è stata capace complessivamente e completamente di cambiare linguaggio, perché ai tempi miei il processo era ancora troppo acerbo, non era ancora maturo, non era ancora... Adesso invece il processo è molto più maturo. Adesso ci sono le condizioni per lavorare direttamente, di nuovo, linguaggio e politica si riuniscono davvero a questo livello qua, cioè al livello del cambiamento sociale. Questa è una come dire, lettura che mi rendo conto è molto personale, molto parziale di Virno, può essere che chi di voi abbia voglia di leggere quel libro troverà delle cose insomma, diverse da come vedete io. Però insomma, questo è il modo in cui io comunque lo leggo e questo è quello che è quello che interessa a me, questa è la ragione per la quale da circa un paio d'anni sto cambiando tutti i programmi dei miei corsi per riorientarli verso la questione del linguaggio. Non perché il linguaggio, insomma, è vero, io ho studiato parecchio il linguaggio quando ero giovane, perché ho fatto una tesi da un punto di vista logico, ma sulla linguistica. Poi però per un sacco di anni dopo ho smesso e quindi uno potrebbe dire, vabbè, sei te che hai voglia di parlare di queste cose perché ti piace la linguistica, questo sarà anche vero. Però insomma io mi illudo, pretenderei invece di pensare che ci sono delle ragioni diverse dietro a questa scelta che ho fatto, è perché credo di essere da vent'anni, mi sono rotto i coglioni di tenere sempre così separate tutti i pezzi della mia vita. Quindi cerco di metterli il più insieme che posso. E poi perché penso che davvero sia il terreno più importante, il terreno principale. Oggi sbagliare, cioè portare una comunicazione linguistica vecchia in in questi nuovi movimenti, nelle pratiche delle moltitudini, può essere più pericoloso che non sbagliare l'obiettivo, che non fare un passo più lungo della gamba. È sul linguaggio che dobbiamo concentrarci. Ci dobbiamo concentrarci per sperimentare, per capire, eccetera, eccetera. Io insegno in una accademia d'arte, ma sapete bene che dell'arte non me ne frega un accidente. Perché penso che sia già morta per conto suo, o nella misura in cui sopravvive è un fenomeno di mercato che va studiato con gli strumenti della, come dire, sociologia e non certo dell'estetica. Però sono convinto fortemente che l'espressività sia invece, la dimensione espressiva sia una cosa importante. E la dimensione espressiva oggi è una dimensione che molto più di ieri ha un valore politico. Ce l'ha per conto suo, è inutile che noi lo vogliamo o no, ce l'ha. Poi possiamo, come dire, favorire o possiamo assecondare o ostacolare questo, come dire, processo, ma ce l'ha. E quindi, nella misura in cui io sono interessato, oltre che ai processi di analisi e di comprensione della società, anche alle azioni, nella misura in cui io sono interessato, oltre che alla episteme, anche alla praxis, e quindi mi pare che oggi attrezzarci a livello dell'episteme per fare una praxis migliore sia, dal mio punto di vista, una cosa altamente. Poi voi potete pure sentirvi strumentalizzati, come diceva l'ex direttore De Filippi, mi rendo conto che ci può essere questo dubbio che diceva, ma perché ci fai i corsi? Tanto comunque vi strumentalizzerei lo stesso, anche se, cioè, è ovvio che vi faccio i corsi sulle cose che mi interessano, quindi d'altra parte non potrei farvi dei corsi sulle cose che non mi interessano, perché voi non avreste una qualità dei corsi che vi va bene a voi. E comunque, voglio dire, in qualche maniera, secondo me, poi sono strumenti che ognuno di voi poi se li usa come chiede lui, insomma. Non è che la mia impostazione teorica incide più di tanto. Siccome all'esame non vi chiedo di ripetere quello che vi ho detto a lezione, ma di capire cosa. Comunque va bene, basta. Io con questa cosa finirei il linguaggio e domani cominciamo a parlare di robot. Robot, uomini artificiali, ci divertiamo insomma un po' di più. Faccio un misto. Anche? Faccio un misto tra le due cose, perché gli interessi stanno lì. Vedremo, va bene. Io ve lo dico sempre, ma allora, se avete domande fatele, ma non le fate mai, quindi vuol dire che avete capito tutto.